Storie, storielle, storiacce di Raffaella Calandra. Rifiuto di chiamarlo omicidio Calvio. Mi rifiuto perché non ci credo. Sono quello che può dare più elementi per credere nel suicidio, visto che sono uno degli ultimi che ho sentito quell'uomo e ne conoscevo la gravità. Io credo che ci sia stata la più grande rapina del secolo. Si poteva salvare tutto. E chi è che non ha voluto salvare il Banco Ambrosiano? È una domanda veramente importante la sua. Venticinque anni dopo il ritrovamento sotto il ponte dei Frati Neri a Londra del corpo del banchiere Roberto Calvi, l'unico punto forse fermo della vicenda, i cui contorni sconfinano nelle nebbie degli anni più misteriosi della storia d'Italia, è che l'origine di quella morte va cercata nel crack del Banco Ambrosiano. Una convinzione che trova concordi chi, come Flavio Carboni, che ci parla, è convinto del suicidio del banchiere, e chi invece crede nella tesi del delitto. Versione questa sostenuta ultimamente anche dalla Corte d'Assise di Roma nella sentenza con cui mercoledì 6 giugno 2007 ha però assolto tutti e cinque gli imputati accusati di omicidio. Il boss di Cosa Nostra, Pippo Calò, l'esponente della banda della Magliana, Ernesto Diotallevi, Silvano Victor, contrabbandiere di jeans e caffè, Manuela Kleinsisch, compagna di Carboni, e appunto l'imprenditore Flavio Carboni. L'ho accolta con quella gioia e anche amarezza, vero, dato il tempo trascorso e le sofferenze sofferte. Una cosa che si trascina da 25 anni, cosa vuole? Lascia così, insomma, storditi quasi poi. E credo che un quarto di secolo avrebbe piegato qualunque resistenza, avrebbe vinto qualunque resistenza. Io ho retto, non credo che sia tutto attribuibile alla mia resistenza fisica, ma forse un po', anzi senz'altro, una fede, un affetto. Ci credeva in questa assoluzione? Ma io pienamente, Dio mio, perché non dovevo crederci? Sì. Cosa può attendersi uno che viene accusato di qualcosa di cui nulla c'è che possa riguardarlo? Ma proprio nulla. Neanche i rapporti con le persone cui imputate, che quello principale sarebbe stato quello con Calò, mi pare. Visto forse due volte, forse tre, e aver fatto quasi un nulla, una piccola operazione finanziaria, non mi ricordo se nel 77 o nel 78, viveva a Roma tranquillamente libero con un altro nome, agli loro. Ero solo un imprenditore, ma allora lo ero molto di più. È vero, se tutte le persone che mi avevano presentate dovevo fare una ricerca negli uffici giudiziari, beh, insomma, staremmo freschi, lì lo capisci. Ecco, Carboni, la sentenza è stata una assoluzione per tutti quanti gli imputati, però con una ufficialità per la prima volta parla di omicidio per Roberto Calvi. Si è parlato anche di suicidio, c'è stata anche un'altra sentenza, quella di Londra, quella più vicina ai fatti e secondo me forse è più credibile. Io credo che non ci siano stati elementi per escluderlo forse da parte di questa corte d'assise di Roma. Io rimango della sempre più che mai anzi convinto, se qualche momento c'è stato di incertezza dentro di me che potesse trattarsi anche di omicidio, sempre più mi sono convinto, e mai come adesso, che si è trattato di un suicidio. Del resto anche un noto patologo italiano, che è il professor Fiori, non è assolutamente d'accordo con il medico legale tedesco. Quindi non saprei, del resto il primo, quello che visitò Calvi la prima volta, Simpson, il quale non ebbe dubbi nell'affermare che era un suicidio. Solo dopo le continue, noi lo sa che come italiani abbiamo esigenze di fare creare il giallo, il sospetto. Come ha detto il suo avvocato, richiamando una frase di Leonardo Sciascia. Sciascia, dopo la morte, dopo tre giorni, mi pare che affermò: vuoi vedere che più là diventerà omicidio? Se io credo motivi esistano per un suicidio, Calvi davvero li aveva tutti. Se esistono motivi per suicidarsi, Calvi quel giorno, in quei momenti, li aveva tutti. Qual è il primo che lei indicherebbe, a cui penserebbe? In quel giorno l'avevano defenestrato la presidente Ambrosiano, quel giorno si era buttata la sua segretaria dalla finestra, diciamo così, e si era suicidata stramaledicendolo. Tutto era successo quel giorno, purtroppo. Se fosse stato omicidio da chiunque l'avesse commesso, mi domando, ma che bisogno c'era di fare tutta quella sceneggiata al Tamigi, al centro del Tamigi, perché se no se la andava più a sinistra era di competenza della Militar Police, se era a destra la competenza di Scotland Yard, insomma tutte queste fantasticherie. Uno che aveva la mafia, che avesse voluto uccidere, ma le pare che la mafia si comporta in quel mondo, che lo manda a Londra per ammazzare a Londra perché non ci sono altri posti, metterlo nel fiume, o tutta quella messa in scena, perché? senza nessuna prova. E poi, dove risulta che ci sia stato neanche un solo rapporto di una sola lira fra Calvi e la mafia? Dove risulta? Non risulta. Non è risultata una sola lira. Ci sarebbero potute essere, diciamo, almeno secondo l'accusa, anche ragioni per un omicidio di Roberto Calvi. Sì, ma la mafia perché? Diciamo tutti, Bush, Garibaldi, Mazzini, ma la mafia perché? Perché io conoscevo Calò. Perché io ho visto due volte il ballo, ecco perché la mafia. Perché lui avrebbe mal gestito fondi della mafia che gli erano stati affidati per riciclarli. Certo, ma per sostenere questo, sulla base di quale elemento? Che cosa non si può dire se non servono prove? Si dice che gestiva soldi della mafia. E malgrado il setaccio che hanno fatto per la bancarotta dell'Ambrogiano, non è risultato alcun rapporto. Neanche i familiari hanno mai detto che Calvi ha avuto rapporti con la mafia. Ma era l'unico modo, forse, per sostenere un'accusa. E già, perché dunque la mafia e Calò, certo Calò, la Magliana, Calò, Carboni, eccetera. Io non capisco né cosa c'entro con la Magliana, che per me rimane sempre un rione, né per Calò, che per me rimane un uomo che ho visto un paio, due o tre volte in tutta la mia esistenza, molto prima di questi fatti, né un movente Calvi per me doveva campare 6.000 anni, né laddove si fosse trattato di un omicidio, tutta quella rocambolesca fuga da Trieste, lasciando tracce ovunque e dappertutto. Ma dico, come si fa? Secondo lei la mafia si sarebbe comportata così? L'ergastolo aveva chiesto il PM Luca Tescaroli, che contro gli imputati aveva richiamato soprattutto le circostanze della morte di Calvi, una telefonata fatta dal banchiere, le difficoltà per un uomo di una certa età di arrivare in quel punto lungo il Tamigi dove era stata legata la corda, alcune perizie. Tra gli ultimi a vedere a Londra il banchiere fu proprio Carboni. Il mio torto, essere stato a Londra in quei giorni. Come ci racconterà tra poco, Carboni tentò, mentre era a Londra, un'estrema mediazione con lo IOR, la banca del Vaticano dei tempi di Marcinkus, con cui Calvi aveva creato una fitta rete di società. E su tutto, sugli affari e sui contatti, si allunga l'ombra della P2 di Licio Gelli. La P2 è più sostenibile al limite, no? Perché perlomeno Calvi era un piduista, io grazie a Dio no, Calvi era un piduista, quindi... Diciamo così, come fatto astratto, come poteva essere più quello, ma che c'entrava la mafia, no? Adesso un'altra indagine sulla P2. Ma mi scusi, sono trascorsi 25 anni. Quando ad un uomo, è vero, viene perseguitato per 25 anni e difendersi dal nulla è assai più difficoltoso. Che elementi ci sono? Ce n'è uno, un pezzo, una cosa, una qualunque cosa, no, nulla. Non è risultato una lira, una cosa, nulla. E a questo punto come si fa? 25 anni solo perché conosceva quello, poi che cosa ha detto il pentito? A quel pentito che ha sentito dall'altro pentito che Calò doveva dare un ordine. Ma dove risulta? Dove c'è? Ma che cosa mi importa a me di Calò, tra l'altro? E che Calò, perché doveva uccidere Calvi? Calò che non sa neanche chi è, secondo me. Calò ha saputo che esiste Calvi, solo dopo che l'hanno chiamato. Ma quando mai? Una montagna, mi creda, di assurdità, di assurdità. Quelle che Carboni chiama assurdità per l'accusa sono stati indizi contro gli imputati, indizi però non considerati sufficienti per la Corte che assolve tutti. Ritorniamo con Carboni a quelle misteriose ore di 25 anni fa, prima del ritrovamento senza vita del corpo di Roberto Calvi a Londra. Un uomo certamente preoccupato in quella situazione, soprattutto per quel clamore che si andava sempre più e quello che poi lo dissuase ad andare in Svizzera anziché a Londra. Perché era diretto in Svizzera dove l'aspettava la figlia. Gli avevo preso tra l'altro un appartamento in affitto io con i soldi miei. Non si può, è vero, andare solo così per congetture, così come si fa a chiedere condanni di morte, perché tale era la richiesta, è vero, senza avere un solo elemento. E che cosa si può provare? Voglio aggiungere, e questo volentieri, che esistono i giudici. Esistono, grazie a Dio, e per questo io sono ancora vivo, per questo e per la fede che ho. Stavo bene allora, stavo bene prima di conoscere Calvi, avevo un bel patrimonio, mi divertivo e avevo le mie gioie, mi creda. Ecco che cosa mi ha procurato a me la morte di Calvi, il mio torto, essere stato a Londra in quei giorni. Lei che lo ha accompagnato appunto? Io non l'ho accompagnato, io non ci volevo andare, non c'ero andato. Fu solo per purtroppo con il fatto che lui si trovava a Londra in un albergo anziché in una villa, quello che mi aveva promesso il mio socio Hans Kunz, che neanche lui sapeva. È vero, una cosa rocambolesca, tutto improvvisato da un'ora all'altra. Penso un po' se un omicidio premeditato ha bisogno di queste improvvisazioni da un'ora all'altra. O se lo si mandava lì per essere visti da tutti e scoperti. saperti da tutti, o fare come ho fatto io lasciando il mio nome negli alberghi e facendo sapere dove stavo. Se veramente avessero organizzato, il primo che avrebbero cercato sarebbe stato io, no? Lei dice: io non volevo andarci a Londra, cos'è? Non è che non voleva andare, non c'era nessun motivo che io lo raggiungo. Fu lui a chiamarmi e a dirmi: guarda, mi hanno mandato in questo albergaccio. Io capivo che voleva che lui andasse lì, perché era solo e voleva che io continuassi a intervenire in quei personaggi del Vaticano, perché gli si desse appunto quello che lui sperava di avere. Cosa che feci, tra l'altro, da Londra, con telefonate che risultano. Tutto risulta quello che ho detto io, nulla risulta di quello che hanno detto contro di me. Quindi Calvi la chiamò perché lei, diciamo, perché tentasse l'ultimo tentativo presso lo IOR. L'unica persona che ha dato una mano a Calvi, l'unica persona che ha dato, sono stato io, l'unico che veramente ha fatto cose concrete ed efficaci, se Calvi stesso non si fosse comportato male proprio nei confronti del Vaticano e anche noi, e tuttavia lo ripresi. E venne, lo sanno tutti, a chiedere perdono da me, chiedendo all'allora mio collaboratore Pellicani, che voleva essere ricevuto da me dopo che io ne chiesi che non mi venisse più a cercare. Lei mi ha parlato dell'ultimo momento in cui ha avuto contatti con Calvi. La volevo far tornare indietro al momento in cui lei ha conosciuto Calvi, lo ricorda? Sì che lo ricordo, e anche allora non era mia intenzione conoscerlo. Arrivai all'appuntamento mentre in barca stava con me l'onorevole Pisanu e il Carlo Caracciolo e Carlo Sbinetti, mi pare, non so se c'era anche Caracciolo, non ricordo bene, sì. Tutti questi personaggi in barca con me, arrivamo con un'ora e mezzo di ritardo e ciò nonostante mi attesero. L'unico interesse mio all'epoca, quando stavo bene, era di concorrere insieme a Caracciolo all'acquisizione del Corriere della Sera. All'inizio questo era l'interesse, nell'agosto del 1981. Ma ciò malgrado non eravamo proprio così entusiasti di volerlo conoscere e arrivammo sicuri di non trovarlo al largo di Porto Cervo. Questa versione io l'ho data un attimo dopo che fui arrestato. Purtroppo il soggetto da colpire ero io, così in breve. Perché secondo lei era il soggetto da colpire? Perché ero il più importante in quel momento. Ero io che avevo la responsabilità di portare a compimento, cosa che ero riuscito anche a fare. Ero io che avevo i rapporti e le conoscenze giuste per quel caso lì. Ero io che mi ero adoperato per quell'uomo. E quale miglior soggetto di me, visto che per mia disgrazia ero andato anche a Londra? Anche per il suo interessamento al Corriere della Sera? Era in vendita e io col gruppo, diciamo così, col gruppo Caracciolo, ci aveva una certa intenzione, perché era in vendita, non era una cosa che si voleva strappare a Calvi. Un giornale in difficoltà, Rizzoli non poteva pagare e quindi c'era una certa idea, diciamo così, non era proprio un patto. La cosa per la quale io mi stavo occupando è che c'era effettivamente un premio per me, anche, diciamo così, pecuniario, che poi non è arrivato. Non erano i 19 milioni il premio, non ci credevano, perché io ebbi contro di me anche Pellicani, il famoso memoriale di Pellicani, che non era il mio braccio destro e sinistro come lo è diventato dopo, perché anche Pellicani si lasciò, forse suggerito da qualcuno, a dire una montagna di menzogne. Della stessa operazione si interessò anche Licio Gelli. Ci risentiamo tra un minuto.